Capitolo 47. Quel loro riunirsi era stato tristissimo, poiché ciascuna di esse si era sentita la più infelice delle tre. Tuttavia, Mrs. Norris, legata com'era a Maria, era quella che realmente soffriva di più. Maria era la sua prediletta, la più cara di tutti i nipoti. Il matrimonio con Mr. Rushworth era stato opera sua ed era stata solita ripeterlo dandosene grande vanto, poiché era realmente convinta che fosse così. Vederlo naufragare a quel modo l'aveva annientata. Fanny trovava in lei una creatura totalmente cambiata, messa a tacere dalla sorte, quasi stupidita, indifferente a tutto quanto le si svolgeva intorno. L'essersi trovata sola con la sorella e col nipote ammalato, la casa lasciata alla sua supervisione, era stata un'opportunità del tutto sprecata. Incapace come si sentiva di dirigere, di comandare e perfino di immaginarsi utile. Colpita da vera afflizione, la sua propensione all'attivismo si era come intorpidita e né Lady Bertram né Tom avevano ricevuto da lei il benché minimo aiuto. Non aveva fatto per loro più di quanto essi avessero fatto vicendevolmente l'uno per l'altra. Erano rimasti tutti e tre soli, drelitti, smarriti, ed ora l'arrivo degli altri serviva a Mrs. Norris solo per rivendicare in proprio un grado più alto nel dolore. I suoi due compagni si sentivano sollevati, ma nulla di buono poteva darsi per lei. Edmund era il benvenuto per il fratello, quasi quanto Fanny lo era per la zia, ma Mrs. Norris, invece di ricavare conforto dalla loro presenza, si sentì ancora più irritata dalla vista della persona che, nella cecità della sua irosa sofferenza, era indotta a considerare come il demone malefico della vicenda. Se Fanny avesse accettato Mr. Crawford, quel che era successo non avrebbe potuto accadere. Anche la presenza di Susan le era fonte di offesa, era troppo accasciata per rivolgerle più di qualche sguardo di ripulsa, ma la sentiva come una spia, un'intrusa. Non solo, era una nipote indigente e tutto quant'altro poteva esservi di detestabile al mondo. Dall'altra zia, Susan fu ricevuta con quieta bontà. Lady Bertram non poteva dedicarle molto tempo né molte parole, ma sentiva che, come sorella di Fanny, apparteneva di diritto a Mansfield ed era pronta a baciarla e a volerle bene. E Susan si sentiva più che soddisfatta della situazione, poiché era giunta perfettamente conscia di non potersi aspettare altro che cattive disposizioni da parte della zia Norris. Ed era così colma di felicità, così fortificata dalla certezza che la buona sorte l'aveva sottratta a molti mali sicuri, da essere pronta a sopportare un'assai maggiore indifferenza da parte di quei parenti appena conosciuti. Veniva lasciata un bel po' a se stessa, libera di familiarizzarsi con la casa e con i giardini come meglio le pareva, mentre quelli che in altre circostanze avrebbero potuto occuparsi di lei erano chiusi in se stessi o tutti presi da chi dipendeva interamente da loro per l'immediato personale benessere. Edmund che tentava di soffocare la propria angoscia nello sforzo di dar sollievo al fratello, Fanny tutta dedicata alla zia Bertram, tornata alle previe funzioni con zelo rinnovato, ancora accresciuto rispetto a quello di un tempo, convinta di non poter mai fare abbastanza per qualcuno che dava prova di avere un così grande bisogno di lei. Parlare dell'orribile accaduto con Fanny, parlarne e lamentarsene era l'unica consolazione di Lady Bertram. Ascoltarla e sopportarla, risponderle con l'accento dell'affetto e della simpatia, era tutto quanto si poteva fare per lei. Confortarla con altri mezzi era fuori discussione, il caso non ammetteva consolazione. Lady Bertram non pensava profondamente, ma guidata da Sir Thomas pensava rettamente su tutti i punti etici fondamentali e perciò valutava in tutta la sua enormità quello che era avvenuto. Non tentava di considerare con leggerezza la colpa e l'infamia, né si aspettava che Fanny le consigliasse di farlo. I suoi affetti comunque non erano profondamente radicati, né la sua mente era tenace. Dopo un certo tempo Fanny trovò che non era impossibile guidarne il pensiero in altra direzione e ravvivare in lei l'interesse per le occupazioni consuete. Ma ogni volta che Lady Bertram tornava a fissarsi sull'argomento, lo vedeva sotto un'unica luce perché implicava la perdita di una figlia e la calamità di una vergogna che non avrebbe mai potuto essere cancellata. Fanny apprese da lei tutti i particolari venuti alla luce. Fino a quel momento la zia non era una narratrice molto metodica, ma con l'aiuto di alcune lettere e da Sir Thomas, di quanto lei stessa già sapeva e poteva logicamente mettere insieme, fu presto in grado di conoscere quanto desiderava a proposito delle circostanze in cui la vicenda si era svolta. Mrs. Rushworth era andata per le vacanze di Pasqua a Twickenham, ospite di una famiglia con la quale aveva stretto rapporti intimi da pochissimo tempo. Una famiglia dai modi disinibiti e piacevoli e probabilmente con principi morali discutibili e moderazione di comportamento al pari di quelli, visto che a casa loro Mr. Crawford aveva accesso in qualsiasi momento. Della presenza di lui in quei luoghi Fanny già sapeva, ora apprendeva che nello stesso periodo Mr. Rushworth si era recato a Bath per trascorrervi alcuni giorni con la madre e riaccompagnarla in città e che Maria, presso questi amici, si era trovata assolutamente libera. Libera anche dalla presenza di Giulia, che 2 o 3 settimane prima aveva lasciato Wimpole Street e si era trasferita presso certi parenti di Sir Thomas, dei quali era rimasta ospite. Un trasferimento, il suo, che ormai il padre e la madre propendevano ad attribuire a un qualche progetto in cui aveva parte Mr. Yates. Subito dopo il ritorno dei Rushworth a Wimpole Street, Sir Thomas aveva ricevuto da Londra una lettera di un suo vecchio amico, intimo, che, avendo udito molte cose atte ad allarmarlo ed essendone stato per di più testimone, aveva scritto per consigliargli di venire a Londra, così da poter far pesare di persona la propria influenza sulla figlia affinché ponesse fine ad una intimità con Crawford che già la stava esponendo a spiacevoli commenti e che evidentemente metteva Mr. Rushworth in una posizione equivoca. Sir Thomas si accingeva per l'appunto ad agire in base a quella lettera, senza averne comunicato il contenuto ad anima viva a Mansfield, quando essa fu seguita da un'altra, inviata con corriere espresso dallo stesso amico, che gli dava notizie della condizione quasi disperata in cui era precipitata la situazione dei giovani interessati. Mrs. Rushworth aveva abbandonato la casa del marito e Mr. Rushworth, sconvolto e adirato, si era recato da lui, Mr. Harding, per chiedergli consiglio. Mr. Harding temeva che vi fosse stata, perlomeno, estrema e flagrante sconsideratezza da parte di Mrs. Rushworth e di Mr. Crawford. La cameriera della vecchia signora Rushworth era terribilmente minacciosa. Lui faceva tutto quanto era in suo potere per calmare le acque, nella speranza di un ritorno di Maria, ma era assai contrastato in Wimpole Street dall'influenza della signora Rushworth, madre, e ci si poteva aspettare la peggiore delle conclusioni. Questa terribile comunicazione non aveva potuto essere nascosta al resto della famiglia. Sir Thomas era immediatamente partito per Londra, Edmund aveva voluto accompagnarlo e gli altri erano rimasti in uno stato di desolazione tale da essere superato solamente da quello successivo all'arrivo delle lettere che seguirono da Londra. Ogni cosa era ormai di dominio pubblico e al di là di ogni speranza di compromesso. La cameriera della signora Rushworth, madre, era in grado di fornire delle prove e, sostenuta dalla padrona, non poteva essere messa a tacere. Le due signore, pur nel breve tempo in cui si erano trovate sotto lo stesso tetto, non erano andate d'accordo e l'ostilità della più anziana nei confronti della nuora poteva avere origine tanto dalla mancanza di rispetto con cui era stata personalmente trattata, quanto dal risentimento che per amore del figlio nutriva verso di lei. Stando così le cose, la situazione era senza sbocchi. Ma anche se la madre fosse stata meno ostinata e se la sua opinione avesse avuto meno peso presso il figlio, che tendeva a lasciarsi guidare dall'ultimo interlocutore con cui si trovava, dalla persona che riusciva ad agganciarlo e ad appartarsi con lui, il caso sarebbe stato ugualmente senza speranza, perché la giovane Mrs. Rushworth non era ricomparsa. E vi era ogni ragione di credere che se ne stesse nascosta da qualche parte con Mr. Crawford, che aveva lasciato la casa dello zio sotto pretesto di un viaggio urgente il giorno stesso in cui lei si era assentata. Tuttavia, Sir Thomas si tratteneva ancora in città nella speranza di scoprire dove fosse Maria e di strapparla a una ulteriore vita di vizio, benché tutto fosse ormai perduto dal punto di vista della dignità. Fanny quasi non poteva sopportare il pensiero delle presenti condizioni di spirito dello zio. In quel momento vi era uno solo dei suoi figlioli che non fosse per lui motivo di desolazione. Le condizioni di salute di Tom si erano molto aggravate a causa del colpo che la condotta della sorella gli aveva inferto e la speranza di guarigione si era tanto allontanata che perfino Lady Bertram era allarmata dal cambiamento del suo aspetto e tutti i suoi timori erano regolarmente comunicati al marito per iscritto. Poi la fuga di Giulia, quest'altra sventura che si era abbattuta su di lui al suo arrivo a Londra e la cui forza era stata attutita sul primo momento dalla preoccupazione maggiore. Doveva essere invece ora dolorosamente risentita, Fanny lo sapeva bene. Le sue lettere dicevano fino a che punto la deplorasse. In qualsiasi altro momento, quello di Giulia sarebbe stato un matrimonio indesiderabile, ma vederlo stringere in quel modo clandestino e in quelle circostanze metteva i sentimenti di Giulia in una luce deplorevole e aggravava seriamente la follia della sua scelta. Sir Thomas considerava l'accaduto come uno sbaglio commesso nel modo peggiore e nel peggior momento, e benché Giulia fosse più perdonabile di Maria, nella misura in cui la follia è più perdonabile del vizio, non poteva fare a meno di pensare che il passo da lei compiuto apriva le peggiori prospettive di una vita matrimoniale non dissimile da quella della sorella. L'ambiente di cui era entrata a far parte non lasciava altre speranze. Fanny sentiva la pena di lui fino in fondo. Lo zio poteva trovare conforto solo in Edmund. Il pensiero di ognuno degli altri tre figlioli doveva straziargli il cuore. Quanto all'irritazione che lei gli aveva causato, confidava che, ragionando diversamente da Mrs. Norris, egli l'avesse ormai superata, poteva essere perdonata. Mr. Crawford l'aveva automaticamente ed inequivocabilmente giustificata dall'accusa di averlo respinto per ostinazione. Ma questo, benché importantissimo per lei, doveva essere una povera consolazione per Sir Thomas. La disapprovazione dello zio era stata per lei un'esperienza terribile, ma cosa potevano rappresentare per lui la sua giustificazione, o la sua gratitudine, o il suo affetto? Il suo sostegno poteva trovarlo unicamente in Edmund. Invece si sbagliava pensando che Edmund non fosse anche lui fonte di vera pena per il padre. Era una pena meno cocente di quella che gli cagionavano gli altri tre figli, ma Sir Thomas considerava la felicità del suo secondogenito gravemente compromessa dalla sorella e dall'amico che con la loro inqualificabile condotta gli impedivano senz'altro l'auspicabile matrimonio con la donna che, spinto da un indubbio amore, egli aveva assiduamente corteggiata con buone probabilità di successo e che, da tutti i punti di vista, eccettuato quel suo deprecabile fratello, sarebbe stato un così buon acquisto per la loro famiglia. Si era reso conto, mentre si trovavano insieme in città, di quanto Edmund soffrisse in aggiunta all'angustia che li affliggeva tutti quanti. Era stato testimone del suo comportamento e ne aveva congetturato i sentimenti. E avendo ragione di credere che avesse avuto un colloquio con Miss Crawford, dal quale gli era derivato solo un più profondo dolore, aveva desiderato per questo e per altri motivi che lasciasse al più presto Londra, e lo aveva incaricato di andare a prendere Fanny e di riaccompagnarla a casa dalla zia, cercando così di dar sollievo a lui oltre che aiuto alla moglie. Fanny non immaginava i segreti pensieri dello zio a questo proposito, così come Sir Thomas non immaginava quale fosse il vero carattere di Miss Crawford. Se egli fosse stato messo a parte della conversazione che il figlio aveva avuto con lei, non avrebbe mai desiderato che lo sposasse, anche se, anziché 20.000 sterline di dote, ne avesse avuto 40.000. Per Fanny, il fatto che Edmund dovesse essere per sempre diviso da Miss Crawford era una certezza, eppure, finché non avesse saputo che anche lui la pensava allo stesso modo, la sua personale convinzione non bastava a tranquillizzarla. Sentiva che doveva essere così, ma voleva averne la conferma. Se ora le avesse parlato in proposito, con l'abbandono che in passato le era parso così difficile da sopportare, ne avrebbe tratto grande conforto. Ma si rese conto che per il momento ciò non sarebbe avvenuto. Si incontravano raramente e sempre alla presenza di altre persone. Probabilmente egli la evitava, evitava di trovarsi da solo con lei. Cosa se ne doveva dedurre? Che il suo giudizio ammetteva la realtà della situazione ed egli accettava l'amara parte che gli spettava in quell'afflizione familiare, ma che ne risentiva il dolore troppo acutamente per farne argomento anche della più superficiale menzione. Queste dovevano essere le condizioni di spirito in cui si trovava. Si piegava all'inevitabile, ma ciò lo sottoponeva a sofferenze che non poteva esprimere a parole. Molto, molto tempo doveva passare ancora prima che egli pronunciasse nuovamente il nome di Miss Crawford e che lei stessa potesse sperare di vedere rinnovare l'antico intimo rapporto. E molto tempo passò. Erano giunti a Mansfield di giovedì e solo la domenica successiva Edmund incominciò a toccare l'argomento. Sedeva accanto a lei quella domenica sera, una sera di pioggia, proprio nell'ora in cui se un amico è vicino il cuore non può non aprirsi ed ogni cosa viene detta. Nella stanza non c'era nessun altro, ad eccezione della madre di lui, che dopo aver ascoltato un commovente sermone aveva pianto fino ad addormentarsi. Allora gli fu impossibile non parlare e così, iniziando con un preambolo nel modo che gli era solito, un discorso in cui era difficile trovare un nesso con quello di cui avevano appena finito di parlare, dopo la solita dichiarazione che se lei avesse acconsentito ad ascoltarlo per alcuni minuti sarebbe stato molto breve e certamente non avrebbe più in seguito abusato della sua gentilezza in proposito. Perché no, non aveva da temere che la cosa si ripetesse, l'argomento sarebbe stato definitivamente chiuso. Si abbandonò al piacere di riferire circostanze e sensazioni di primaria importanza per lui a un'ascoltatrice della cui affettuosa simpatia era assolutamente sicuro. Con che cuore Fanny lo ascoltasse, con quale curiosità e partecipazione, con quanta pena e delizia. Come registrasse l'agitazione della voce di lui e come i suoi occhi si fissassero su qualsiasi oggetto all'infuori del cugino, è facile immaginare. L'inizio fu allarmante. Edmund aveva visto Miss Crawford. Era stato invitato a recarsi da lei, aveva ricevuto un biglietto da Lady Stornoway che sollecitava una sua visita e pensando che quello dovesse essere l'ultimo amichevole incontro prima del congedo definitivo, e facendole credito di tutti i sentimenti di vergogna e desolazione che secondo lui la sorella di Crawford doveva provare, si era recato da lei in uno stato d'animo così tenero, così devoto, che per alcuni minuti fece temere a Fanny che quello non potesse essere l'ultimo incontro. Ma a mano che gli procedeva nel racconto, quei timori furono spazzati via. Lei lo aveva incontrato, disse, con un'aria seria, indubbiamente seria, anzi agitata. Ma prima che gli riuscisse di pronunciare una frase intelligibile, aveva iniziato il discorso in un modo che, lo ammetteva, lo aveva subito negativamente impressionato. Ho sentito che lei era in città, gli aveva detto, e volevo incontrarla. Parliamo di questa triste faccenda. Cosa può eguagliare la stoltezza dei nostri due fratelli? Qui Edmund fece una pausa, poi continuò. Non seppi rispondere, ma penso che la mia espressione parlasse per me. Si sentì riprovata, a volte come pronta a percepire le cose. Poi, con voce ed espressioni più gravi, aggiunse: Non intendo difendere Harry a spese di sua sorella. Queste furono le sue prime parole, ma quelle che seguirono, Fanny, non sono adatte, no, non sono adatte ad essere ripetute a te. Non so ricordare tutte le sue parole, non vorrei indulgervi anche se ne fossi capace. In sostanza esprimevano una gran collera per la stoltezza di quei due. Riprovò l'inconcepibile debolezza del fratello che si era lasciato trascinare da una donna della quale non gli era mai importato nulla a compiere un atto che doveva fargli perdere quella che adorava, ma ancor più la pazzia della povera Maria che aveva sacrificato una posizione qual era la sua per ficcarsi in così inestricabili difficoltà, illudendosi di essere veramente amata da un uomo che già molto prima le aveva dimostrato la sua indifferenza. Immagina quel che devo aver provato. Udire la donna che io. Pazzia! Non le veniva in mente un altro termine più severo, solo questo, pazzia. E poi quel suo modo di ricostruire lo svolgersi di quell'intrigo, con tanta deliberata freddezza, con tanto distacco. Nessuna riluttanza nel parlarne, nessun orrore, nessuna femminile, devo dire la parola, pudica esitazione, nessuna esecrazione. Ecco l'opera del mondo. Perché dove troveremo Fanny, un'altra donna altrettanto dotata dalla natura, guastata, guastata? Dopo una breve pausa di riflessione continuò con una specie di calma disperata. Ti dirò tutto e poi la cosa sarà chiusa per sempre. In quanto era accaduto, vedeva unicamente una manifestazione di follia e la follia era condannata solo perché si era esposta senza precauzione. deplorava la mancanza di un minimo di discrezione, di cautela. Il fatto che lui fosse andato a Richmond e vi fosse rimasto per tutto il tempo che lei era stata a Twickenham. Il fatto che lei si fosse messa in potere di una serva, che in breve si fosse fatta scoprire. Oh, Fanny, era questo, l'essersi fatta scoprire, e non la colpa in sé, che lei riprovava. Era l'imprudenza che aveva condotto le cose fino a tali estremi da costringere il fratello a rinunciare ai suoi progetti più cari per fuggire con lei. Si fermò e disse Fanny, credendosi in obbligo di parlare, che cosa hai potuto dire tu? Oh, nulla, nulla che potesse essere capito, ero come impietrito. Poi si mise a parlare di te, sì, si mise a parlare di te rimpiangendo, come ben poteva rimpiangere la perdita di una simile, di questo parlò con molta lucidità. Ma sempre ti aveva giustamente apprezzata. Ha gettata via, disse, una donna quale non incontrerà mai più, lo avrebbe reso meno incostante, lo avrebbe fatto felice per sempre. Ah, mia carissima Fanny, spero di darti più gioia che pena con questo quadro retrospettivo di ciò che avrebbe potuto essere, ma che ora non potrà essere mai più. Non desideri che io taccia? Se sì, non hai che da darmi uno sguardo, da dire una parola e non dirò altro. Ma non vi furono né sguardi né parole. Dio sia ringraziato, disse lui. Eravamo tutti inclini a stupirci, ma sembra che la provvidenza, nella sua misericordia, abbia voluto che il cuore di chi non conosceva l'inganno non abbia dovuto soffrire. Parlò di te con alta lode e caldo affetto, eppure perfino in ciò vi era un non so che di impuro, poiché nel bel mezzo di quanto diceva poté esclamare: «Perché non l'ha voluto accettare? Tutta colpa sua! Che piccola sciocca, non la perdonerò mai! Se lo avesse accettato, come avrebbe dovuto fare, ora avrebbero potuto essere sul punto di sposarsi, e Harry sarebbe stato troppo felice e troppo occupato per ricercare un qualsiasi altro motivo di distrazione. Non avrebbe dovuto fare alcuno sforzo per rientrare nelle buone grazie di Mrs. Rushworth. Sarebbe finito tutto con un superficiale, diluito corteggiamento durante gli annuali incontri a Southerton e ad Everingham. Lo avresti creduto possibile, Fanny? Ma l'incanto è rotto. I miei occhi si sono aperti. Oh, che crudeltà la sua, disse Fanny. Che crudeltà! In un simile momento permettersi di parlare con leggerezza, quasi con gaiezza, a te. Sì, una vera crudeltà. Crudeltà la chiami? Su questo punto non siamo d'accordo. No, la sua non è un'indole crudele, non la considero abbastanza meschina da aver voluto ferire i miei sentimenti. Il male ha radici ancora più profonde. Riposa nella sua totale ignoranza, nella sua incapacità di sospettare nemmeno lontanamente che vi sia un modo di sentire qual è il nostro, in una perversione della mente che le ha reso naturale il trattare il caso come ha fatto. Ha parlato semplicemente come è stata abituata a sentir parlare gli altri, come immaginava che chiunque altro avrebbe parlato. Non si tratta di pecche della sua indole. Non vorrebbe dar volontariamente una pena non necessaria a chi che sia, e benché forse mi illuda, non posso non pensare che per me, per i miei sentimenti, avrebbe... Sono i suoi principi etici che sono difettosi, Fanny, e si traducono in un'assenza di delicatezza in una mente viziata, inquinata. Forse è meglio per me, visto che mi lascia così poco da rimpiangere. Ma no, non è così. Mi sottoporrei volentieri a tutta la pena di doverla perdere, piuttosto che essere costretto a pensarla quale la penso. Gliel'ho detto. Gliel'hai detto? Sì, gliel'ho detto quando l'ho lasciata. Quanto tempo siete rimasti insieme? Oh, forse 25 minuti. Ha proseguito dicendo che ormai l'unica cosa da fare era farli sposare. Ha parlato di questo, Fanny, con una voce più ferma di quanto possa fare io ripetendolo. Poi, mentre continuava, fu costretta a fermarsi più di una volta. Dobbiamo persuadere Harry a sposarla, e considerando da una parte l'obbligo che l'onore gli impone e dall'altra la certezza di aver perduto Fanny per sempre, non dispero di riuscirvi. A Fanny deve rinunciare. Penso che nemmeno lui possa riconquistare una donna come lei, e perciò spero che non incontreremo difficoltà insuperabili. La mia influenza, che non è poca, punterà tutta in quella direzione. E una volta sposata e adeguatamente sostenuta dalla sua famiglia, cioè da persone più che rispettabili, Maria potrà recuperare almeno fino a un certo punto il suo posto in società. Certo, non sarà mai più ammessa in certi ambienti, ma offrendo buoni pranzi e sontuosi ricevimenti, troverà sempre persone disposte a stringere relazione con lei. Senza dubbio, ormai cose del genere sono accettate con maggior larghezza di idee e minori pregiudizi di una volta. Quello che consiglio è che suo padre se ne stia fuori, non gli permetta di danneggiare la propria causa intromettendosi. Lo persuada a lasciare che le cose seguano il loro corso. Se a causa di un suo intervento lei fosse indotta a rinunciare alla protezione di Henry, le probabilità che la sposi sarebbero assai minori che nel caso opposto, se cioè rimanesse con lui. Io so quel che ci vuole per riuscire a influenzarlo. Basta che Sir Thomas si affidi al senso dell'onore e della compassione di mio fratello e tutto potrebbe finire bene. Ma se porterà via sua figlia, distruggerà quanto ha maggior presa su Harry. Dopo aver ripetuto quanto sopra, Edmund era così alterato che Fanny, che lo osservava con silenziosa ma tenerissima preoccupazione, quasi si rammaricò che l'argomento fosse stato finalmente trattato. Ci volle molto tempo prima che egli fosse in condizione di riprendere a parlare. E finalmente disse: "Ora, Fanny, ho quasi finito. Ti ho riferito la sostanza di tutto quanto ha detto lei. Appena fui in condizione di parlare, dissi che non avevo creduto possibile nella condizione di spirito in cui mi trovavo quando ero entrato in quella casa, che potesse accadere qualcosa capace di farmi soffrire ancora di più, ma che lei, con quasi ciascuna delle sue frasi, mi aveva inflitto più profonde ferite. Che benché nel corso della nostra conoscenza mi fossi reso spesso conto di parecchie divergenze fra le nostre opinioni su questioni fondamentali, non avevo sospettato che la gravità di tali divergenze arrivasse al punto di cui or ora mi aveva dato prova. Che il modo in cui trattava la terribile colpa commessa da suo fratello e da mia sorella, non avevo la pretesa di dire che avesse più colpevolmente esercitato le arti della seduzione, il modo in cui lei parlava della colpa in sé, scoprendovi tante cose da riprovare, eccetto quelle che meritavano di esserlo, considerandone le dannose conseguenze solo per cercare il modo di superarle con una sfida alla decenza e con impudente consenso al male. E sopra ogni cosa raccomandandoci una compiacenza, un compromesso, una acquiescenza alla continuazione del peccato, alla possibilità di un matrimonio che, avendo ora l'opinione che mi ero formata di suo fratello, avrebbe dovuto essere più impedito che ricercato. Tutto questo, messo insieme, mi convinceva dolorosamente che prima non l'avevo mai capita e che per quanto lontano potessi riandare col pensiero, era stato alla creatura della mia immaginazione e non a Miss Crawford, che ero stato troppo incline a pensare nei mesi passati. Che forse così era meglio per me. Avevo meno da rimpiangere nel sacrificare un'amicizia, dei sentimenti, delle speranze che in ogni modo ormai avrei dovuto strapparmi dal cuore. E tuttavia questo dovevo e volevo confessarlo. Che se avessi potuto ricondurla al livello in cui da prima mi era apparsa, avrei infinitamente preferito altre, maggiori sofferenze nel separarmi da lei, per potermi allontanare, avendo il diritto di conservarle la mia tenerezza e la mia stima. Ecco quanto le dissi. Il senso perlomeno. Ma come puoi immaginare, non parlai con la stessa calma, con la stessa coerenza con cui l'ho ripetuto a te. Lei era sbalordita, veramente sbalordita, più che sbalordita. La vidi cambiare espressione, arrossì violentemente. Immaginai di scorgere sul suo viso un misto di molti sentimenti, una grande, benché breve, lotta, metà desiderio di cedere alla verità, metà senso di vergogna, ma l'abitudine prevalse. Avrebbe riso se ne fosse stata capace, e vi era una specie di risata repressa mentre rispondeva. Ottima come lezione, davvero. Fa parte del suo più recente sermone? Di questo passo ben presto riformerà tutti a Mansfield e a Thornton Lacey, e quando sentirò parlare di lei la prossima volta, può darsi che sia quale predicatore famoso di una qualche grande e importante congregazione metodista o qualche missionario in un paese straniero. Tentava di parlare con distacco, ma non era indifferente come voleva sembrare. In risposta dissi solamente che di tutto cuore le desideravo ogni bene e che speravo ardentemente che ben presto imparasse a pensare in modo più giusto e non dovesse sentire la mancanza della più preziosa conoscenza che chiunque di noi possa raggiungere, la conoscenza di noi stessi e del nostro dovere di fronte alle lezioni dell'afflizione. Poi immediatamente abbandonai la stanza. Avevo fatto pochi passi, Fanny, quando udii la porta che si apriva alle mie spalle. «Mr. Bertram!» disse la voce di lei. Mi voltai. «Mr. Bertram!» disse con un sorriso, ma era un sorriso che mal si addiceva alla conversazione che si era appena svolta fra noi, un sorriso malizioso, scherzoso, che sembrava invitarmi al fine di sottomettermi, o perlomeno così parve a me. Resistetti. Resistere fu l'impulso del momento e mi allontanai. Da allora, alcune volte per un istante ho rimpianto di non essere tornato indietro, ma so di aver fatto bene, e questa è stata la fine del nostro rapporto. E quale rapporto? Come mi ero ingannato, ingannato sul fratello e sulla sorella. Ti ringrazio della pazienza con cui mi hai ascoltato, Fanny. È stato per me un immenso sollievo. Ora mettiamoci un punto fermo. E tale era la fiducia di Fanny nelle parole di lui, che per alcuni minuti pensò che fosse un punto fermo, invece ricominciò ogni cosa, o qualcosa di molto simile, e ci volle niente meno il completo risveglio di Lady Bertram per porre termine a quella conversazione. Fino a quel momento continuarono a parlare di Miss Crawford, solo di Miss Crawford, di come lo aveva ammaliato e di quanto la natura l'avesse fatta incantevole e quanto sarebbe stata perfetta se fosse stata affidata per tempo a più sagge mani. Fanny, ormai libera di parlare apertamente, si sentì più che giustificata a chiarire la conoscenza che egli aveva ormai del vero carattere di Miss Crawford, con alcuni accenni alla parte che lo stato di salute di Tom aveva presumibilmente avuto nel desiderio di lei di arrivare ad una completa riconciliazione. Non fu una piacevole rivelazione. Per un po' l'istinto oppose resistenza. Sarebbe stato assai più piacevole credere che la simpatia di lei fosse del tutto disinteressata, ma la sua vanità non era tale da indurlo a lottare a lungo contro la ragione. Si rassegnò all'idea che la malattia del fratello l'avesse influenzata, riservando solamente per sé il consolante pensiero che, considerando le molte forze contrastanti delle opposte abitudini, ella gli aveva certamente voluto bene più di quanto si sarebbe potuto aspettare e che per amor suo era stata quasi sul punto di comportarsi rettamente. Fanny pensava esattamente la stessa cosa e concordavano anche nel ritenere che una simile delusione avrebbe avuto un effetto duraturo, lasciando nella mente di lui un'impronta indelebile. Il tempo indubbiamente avrebbe diminuito la sua sofferenza e tuttavia non avrebbe mai potuto cancellare completamente il ricordo di quell'esperienza. E quanto ad incontrare una qualsiasi altra donna che potesse, oh, era talmente impossibile che la sola idea lo riempiva di indignazione. L'amicizia di Fanny era la sola cosa a cui potesse aggrapparsi.